Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, 21 passate da 3 minuti, oggi è giovedì 21 giugno 2012, buonasera da Blu Radio Veneto, da cui siete in frequenza, cioè 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Questa è, dicevo, la vostra emittente, Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme al mio fedele compagno, come piace sempre dire a me, ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Oggi è il solstizio d'estate, ed estate piena. Grazie per avermelo ricordato, ecco, infatti c'è un caldo boia. Qui si scoppia dal caldo, ma meglio così, insomma, non siamo mai contenti, o c'è la pioggia, o c'è la neve, o c'è il ghiaccio, insomma, adesso c'è il caldo, è giusto che sia così. Allora, oggi è, dicevo, giovedì 21 giugno 2012, vi ricordo che quest'oggi, quindi giovedì, insomma, c'è sempre la trasmissione dal vivo, come tutti i giovedì. Questa sera c'è una cantante che ci viene a trovare da Varese, o dalla provincia di Varese, più o meno, o Varese. Tu sei? Oh, buonasera a tutti. Arrivo da Varese, provincia. Ma ne parliamo tra qualche istante. Barbara, ti rubo qualche secondo per ricordare i nostri dati, quello, il numero telefonici, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms vi ricordo è il 346 23 20 033, il nostro sito www.bluradioveneto.it, da dove potete ascoltarci anche in streaming 24 ore su 24. Basta semplicemente andare nella home page, c'è scritto ascolta la radio in alto a sinistra, cliccando lì si sente la radio, appunto, e come dicevo in diretta 24 ore su 24. Poi ancora le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, dedicata interamente o quasi, insomma, alla musica rock, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che sarà dopo di noi dalle 22.30. Ma adesso c'è la carrellata fino appunto a quell'ora con una cantante che ci viene a trovare, dicevo, dalla Varese. È una cara amica soprattutto, prima di tutto, e poi una grandissima cantante, ci presenta il suo album che si chiama L'Esclusiva. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui Barbara Foti. Ciao Ago, ciao a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao Maurizio. Buonasera Barbara. Ciao. Hai fatto un buon viaggio? Sì, un buon viaggio, a parte un incidente tra Bergamo e Brescia, tre quarti d'ora in colonna come al solito, 37 gradi, quindi cotti, stracotti e ricotti. E ricotti. Benvenuta comunque. Benvenuta. Grazie, grazie a voi. Ti sei fatta un regalo questa sera, è una chicca padovana. Una chicca padovana? Sì. Fa parte dell'ambiente ormai. Fa parte dell'ambiente. È della tappezzeria lui. È della tappezzeria. Lui è un caro amico, ma soprattutto è grandissimo, grandissimo chitarrista, non dire di no, perché guarda che ti sculaccio Alessandro, ma è considerato uno dei più grandi chitarristi di Padova, Alessandro Modenese. Ciao Ale. Ciao a tutti. Benvenuto anche a te. Tu ormai sei di casa, dicevamo, no? Sì, come i mobili. Dove ti hanno parcheggiato? Bene Barbara, benissimo. Parliamo, sì, del... dimmi Maurizio. Parliamo del tuo modo di essere musicista. Come è nata l'idea di essere musicista? Guarda, è nato tutto per sbaglio, perché io da ragazzina suonavo la chitarra, proprio a livello amatoriale, molto scanzonata, poi ho abbandonato tutto perché sono quelle cose che fai in adolescenza, e poi niente, a 28 anni ho deciso di riprendere a studiare e niente, mi sono messa in moto, sono andata da un insegnante di musica, praticamente mi ha iniziato. Ti hai istradato? Sì, mi ha istradata, inizio teoria solfeggio, dopo un anno ero già fuori a suonare comunque. Ovviamente aiutato con le basi e quant'altro. Certo. Però poi ho scoperto questa vena artistica, nel senso che avevo questo mio già modo probabilmente interiore, e ho iniziato a scrivere parole e musica. Quindi sei cantautrice, assolutamente. Sono cantautrice, sì, sì. Ed è nato tutto così, per gioco, per scherzo, e adesso è una passione comunque, guai, io senza musica non vivrei. Sì, dobbiamo sottolineare che tu non sei musicista professionista, no, hai io il tuo sono lavoro. Una cantautrice, io esattamente. Ho un lavoro, hai il tuo lavoro, perché esatto. Altrimenti non potrei fare, certo. E svolgere la mia passione, cioè, perché non si vive. Perché non si vive, non si vive più, mai. È difficile. In Italia è molto difficile. È difficile vivere di sola musica, e quindi ho un'altra attività. Però sei riuscita a trovare il tempo per dare sfogo, cioè per cercare, per sì. Ricavarti quel momento per scrivere le tue, sì, cose. Sì, beh, questo sì, perché viene da dentro, è una cosa che viene da dentro, e probabilmente ho raggiunto un grado di maturità tale che poi è sfociata, quindi è uscita. e adesso scrivo le mie canzoni, ne ho tantissime, ovviamente tutti autoprodotti, perché infatti sì. te lo stavo per dire, hai fatto tutto tu, a parte la grafica, come sì. dicevi, che e abbiamo qua anche, abbiamo anche il studio qui stasera, il grafico. Ciao Ervin, benvenuto anche a te. Che poi tra l'altro ti chiederò dove l'hai fatta questa foto, perché avevi il cappello. Sinceramente, allora, vedere questa copertina durante questa giornata di caldo. Sì, sudiamo, solo il pensiero di vederla, di guardarla. Certo. Guarda, è stata fatta a fine settembre, primi di ottobre, credo. C'erano ancora 20 gradi, perché l'autunno scorso comunque è stato caldo. Ha fatto tutto il mese di ottobre caldissimo, però vabbè, la brezza già si sentiva. Eravamo in un prato a Malgesso, vicino a casa di Ervin. E abbiamo fatto una serie di fotografie, anche perché lui è l'autore di tutto, il fautore della copertina, di tutto, del mio sito internet, ha curato nei minimi dettagli qualsiasi cosa. Quindi, ed è stata fatta in questo prato. Poi ovviamente sono state scelte alcune altre fotografie, ce n'è un'altra dietro, sì, appunto, che anche sempre nello stesso giorno. La scelta del cappello, non posso dire, e quel giorno io sono uscita di casa, avevo un cappello in testa, e quindi sono molto spontanea, e abbiamo fatto le foto col cappello. Questo è vero, che sei molto spontanea, ho imparato a conoscerti un pochino, queste lunghe telefonate che ci siamo fatte io e te, insomma, ho imparato appunto a conoscerti. E quindi è nata la copertina col cappello. Col cappello. È nata così. Prima di arrivare all'esclusiva, che è il tuo disco da solista, tu hai cominciato e continui tuttora un esperimento, un duo, si chiama L'Esatto Contrario. Allora, L'Esatto Contrario c'è ancora, ma ha cambiato la formazione, adesso siamo in tre. Però continua ancora come progetto, continua sempre, anche perché siamo in giro a suonare con Giulio Zanellati, scusate, e Lisa Sacchezzina, anzi la saluto, ciao Lisa, sicuramente mi starà ascoltando. Che ti ha dato una spinta notevole al disco, vero Lisa? Sì, diciamo che è molto molto molto brava, che tu hai scritto nelle note, sì, mi ha dato una grande spinta, un progetto che ho curato assieme con lei. Sostegno morale di qualsiasi tipo, qualsiasi cosa, perché oltre a essere una cantante e una scrittrice, perché è un'autrice lei, è anche una cara amica, quindi consigli di ogni tipo, ovviamente mi conosce molto bene, quindi riesce a darmi una profonda spinta, ecco, anche dal punto di vista dell'esecuzione, del mordente, di quello che devo dare anche mentre quando canto, insomma, certo, ecco, mentre canto, sì. Io poi ho comunque, il mio primo brano è stato L'altra metà di me, il primo brano che ho composto, ed è stato quello che appunto ha iniziato, mi ha aperto le porte. E c'è un motivo per cui... Ma, dico il titolo? Sì, no, ma musicalmente... Come l'hai, ma diciamo, l'hai ideato, come l'hai il costruito? Il mio filone è proprio questo, perché alla fine l'altra metà di me, dov'è? È una bella parola, una bella domanda e una bella risposta bisognerebbe dare. La risposta ancora non ce l'ho, nel senso che è difficile gestire rapporti. Certo, chiaro. E di conseguenza, sai, mi sono chiesta, ma dov'è? Dov'è? Ci sarà, perché c'è, so che c'è, ci sarà. Probabilmente devo ancora incontrarla, giusto? Devo ancora incontrarla. Però, e quindi il mio filone è questo. È proprio il rapporto. Vabbè, tantissimi comunque, certo, cantautori si basano, si ispirano comunque sui sentimenti. Certo. L'amore è la chiave, diciamo. La chiave di volta, chiave di moltissimi di volta pezzi. Della vita, di tantissimi pezzi e quant'altro. E musicalmente ti ispiri al pop, tra virgolette, un pop allargato. È un po' contaminato magari da delle... Io ho sentito un po' di swing anche, contaminato un in questo. Sì, un po' swingato, c'è una canzone che fa parte appunto dell'album, che è Perfect Stranger in the Night, che è un po' swingata, scusatemi. Poi ho delle contaminazioni lounge anche ci sono. Sono frutto anche delle tue sperimentazioni dal vivo col gruppo? Sì, anche quello, sono idee mie, sono idee anche dell'arrangiatore, che è anche un altro mio carissimo amico, Stefano Lucato. Che ha curato tutti gli arrangiamenti del disco. Che ha curato tutti gli arrangiamenti del disco insieme a me, ovviamente lui è bravissimo, riesce a vestirmi, cioè a mettere in... Ecco, hai detto una cosa giusta, riesce a vestirti musicalmente parlando. Musicalmente adesso vediamo parlando. Alessandro come ti veste musicalmente lui parlando. Lui è bravissimo. È veramente bravo. Adesso però ci ascoltiamo qualcosa dal disco. Va bene. Così rompiamo il ghiaccio, sentiamo la voce tua e sentiamo soprattutto questo disco. Abbiamo scelto, o meglio, hai scelto la traccia numero 4, Barbara. Sì, l'esclusiva. La title track, che è quella, è quella che dà praticamente il titolo all'album. È un brano un po', si può dire? Sì, un po' arrabbiato. Un po' arrabbiato, insomma, esatto, diciamolo così. In portoghese. Esatto. Il testo almeno, perché vabbè, la è una bossa pop. È molto... Cioè, la musica non è arrabbiata, abbastanza accattivante, entra, è molto dilatata, cioè, ha una bell'onda, un'onda molto, cioè, insomma, spinge bene. Certo. Il testo è un po' arrabbiato, ecco, perché vabbè, racconta la storia, insomma, che l'esclusiva non è mai a nome di una persona, comunque, cioè, non si appartiene alle persone, anche se a volte succede ciò, nel senso che vogliono, cioè, per gelosia, incomprensione, cose del genere. E quindi è nata questa canzone che, a mio avviso, insomma, è abbastanza diretta. Indicativa di un disco, praticamente. Indicativa di un disco. E quindi ha dato proprio il titolo all'album. Barbara Fotti, l'esclusiva. Ehi, ciao, come stai? Non mi pensi mai, io sì, fa lo stesso che vuoi. Hi, è in inglese, sai, è il saluto che noi usavamo per girls and boys. Devi sapere, ho una vita movimentata, mica piatto seminterrata, una vita che va su e giù, cosa credevi tu? Dai, e dimmi tu come stai. Ti sento da un po', se mai ti telefonerò, vedrai perché il ricordo di te. sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rieccoci in studio, rieccoci dal vivo con Barbara Fotti. Ti porto già dei saluti. Sì? Chi? Allora, c'è intanto una ragazza che devo salutare, un'operatrice telefonica, lavora per una compagnia telefonica italiana, si chiama Valeria, ci sta ascoltando, la salutiamo caramente. Benissimo, ciao Valeria. È dalla Toscana, da Pisa. Arriva da Pisa. Da Pisa. E poi ancora ti devo portare i saluti da parte di Erika Bertolin. Ah, ecco, si è già sintonizzata? Sì. Bene, ciao Erika. E poi ancora da Mauro Tara Joplin. Benissimo, Maurone. Ciao Mauro, Mauro Molinari, come stai? Tutto bene? Che poi tra l'altro ci fa sapere una cosa, Maurizio, che sì, lei la barba non ce l'aveva fatto sapere, ma il 7 luglio lei è impegnata. Io sono impegnata, sì, perché abbiamo una serata, insomma facciamo una raccolta fondi per i terremotati, e quindi saremo al centro di Daverio, al comune, insomma il palazzino comunale, e ci sarà questo spettacolo a favore proprio dei terremotati dell'Emilia, insomma. Bene. Raccoglieremo dei fondi, ci saranno anche altri artisti che appunto parteciperanno e verranno coinvolti in questa manifestazione. Mauro sempre organizza queste cose, io quando posso vado molto volentieri. Digli che organizzi qualcosa da queste parti. Mauro, organizza qualcosa di qua, che così almeno ci spostiamo e allarghiamo gli orizzonti. Comunque vedi, non ci sfugge niente. Vedi, è tutto sotto controllo. Esattamente. Parlando di questo pezzo, l'esclusiva, che è la title track, è un pezzo molto vivace, anche se è un testo abbastanza, non dico polemico, ma importante. Importante perché insomma descrive un po', insomma, che alla fine, cioè, i rapporti nascono, perché nascono e finiscono, però non vanno gestiti o manipolati. Quindi alla fine è nato questo testo, ho preso in mano la chitarra ed è nato tutto così, anche perché io scrivo parole e musica insieme. Ah, direttamente. Non ho una via di mezzo, non è che mi viene in mente prima la musica e poi le parole, è tutto assieme. Okay. Cioè sembra che qualcuno... Ma qualcosa lascerà prima, no? No. Immediatamente. Parte un input, io mi fermo. Eric è testimone di qualche canzone, credo, perché è proprio così. Cioè io ho questa... Non lo so io. Probabilmente qualcuno... Sembra che qualcuno si impersonifichi in me, entri e mi detti le cose. E quindi io incomincio, prendo carta e penna. Devi fare così. E inizio a scrivere. Inizio a scrivere. Poi ovviamente a fine stesura... Qualcosa cambia, una parola piuttosto che un altro, un accordo piuttosto che un altro. Però il succo, diciamo, il concentrato è tutto all'unisono. E dobbiamo sottolineare una cosa: che l'esclusiva, questo disco è frutto di una serie di momenti diversi, che chiaramente è nato di un certo periodo, e poi lentamente, progressivamente, anche per motivi di lavoro, quando avevi i momenti giusti, i momenti più appropriati, ti fermavi e scrivevi dei pezzi. Sì. Io ho iniziato poi comunque a scrivere subito. Il primo pezzo, che fa parte dell'album, il più vecchio, diciamo, old, è Come allora. L'ho scritto appunto nel 2004, poi a seguire altri pezzi, più semplicemente Fao nel 2005, poi continuato nel 2006 con Infinite dolcezze, poi nel 2008 appunto è stato un anno abbastanza produttivo. Interessante. Sì, perché ho scritto appunto l'esclusiva, certo, poi Vada come vada, l'esclusiva, ho scritto Chiero l'amor, quella latina. Sì, quella latina, esatto. Perfect Stranger in the Night, anche Maybe, non avevo capito, esatto, poi altre canzoni che non fanno parte di questo album, ma che prossimamente verrò, cioè insomma andrò in studio e andrò a presentare. Proporrai praticamente. L'esclusiva è un pezzo molto latinoamericano come arrangiamento, come sì, sonorità. Come mai una bossa? Una bossa ma nuova? Non lo so come mai, è una decisione anché qua venuta naturalmente. Perché l'arrangiatore c'entra? Sì, Stefano, quando ha sentito il brano mi ha detto, ma facciamolo così. Io gli ho detto, guarda, vorrei dei passaggi in questo modo, piuttosto che l'ho suonata in questo modo, lui ha mantenuto direttamente la mia, cioè sì, la mia versione, e quindi abbiamo costruito sopra. Anche dal punto di vista... Ha costruito sopra proprio l'arrangiamento. E anche dal punto di vista vocale, Baianoz, mi pare che sei molto soddisfatta di interpretare il pezzo. Ma sì, diciamo che anche non solo questo, ma anche gli altri miei pezzi, cioè io li vivo, nel senso, perché li sento comunque miei. Certo. Li ho scritti, ma io li vivo. Chiedo scusa Barbara, ma le tue canzoni, le canzoni che tu scrivi, Sono momenti tuoi personali o sono frutto di fantasia? Alcuni sono miei momenti personali, altri invece sono frutto anche di situazioni esterne. Di altra gente? Sì, di altre persone, colgo degli attimi, colgo delle situazioni, colgo degli input e poi comunque vengono queste cose. No. Però è proprio d'improvviso. Quindi non c'è un orario magari? Non ho un orario. Di notte? Che posso magari svegliarmi e dire, oh, mi è venuta quella, vado, corro, prendo la chitarra, e una via, penna e scrivo. In macchina ho il telefonino, se no non me lo ricordo. Cioè poi, passati 30 secondi, non mi ricordo più niente. Sparisce tutto. È una cosa allucinante. Questa cosa non la capirò mai e non me la spiegherò mai. Se qualcuno, anzi, me la può spiegare. Esattamente. Ed è così. Quindi poi mi è capitato di correre a casa perché non avevo la chitarra e quindi avevo le parole in testa, la musica in testa, però non avevo lo strumento. Quindi bello questo. È una cosa, cioè sono cose così. Io cito sempre un episodio di Finardi che me l'ha raccontato. Lui quando era in treno, spesso e volentieri va via in treno e aveva un motivo in mente, allora lo fischiettava continuamente per prenderlo, perché non andasse via. Anche lo a me fischiettava continuamente. Cosa? Perché, ripeto, sembra che ci sia un alieno. Esatto. Che mi, non so, entri dentro, inside, e mi dica: tu devi dire così, così, così, devi scrivere così, così, così, le note sono questi gli accordi sono questi, muoviti, scrivi, perché sennò vado via. Cioè una cosa del genere. Quindi non so spiegare, probabilmente sono sensazioni mie interiori, stati d'animo, i chakra aperti, non lo so, si aprono di più a volte. E quindi questo è il mio modo comunque di scrivere. Mi è capitato anche qualche musicista mi desse niente, non riesco a scrivere. Della musica? No, non riesco a scrivere. Sulla musica degli altri non riesco a scrivere. Deve essere una cosa totalmente tua. Sì, deve essere una cosa mia perché parte all'unisono, parte almeno è tutta tua, insomma. Con l'insieme di cose. La soddisfazione di avere una cosa totalmente tua, insomma. Sì, poi vabbè, alcuni brani, ad esempio, in Maybe Stefano Lucato ha partecipato perché abbiamo cambiato alcuni accordi, ovviamente ho detto allora partecipi anche tu. E quindi però la base del pezzo era già pronta. Brani, era tutto pronto. I brani sono tutti miei, musica e parole. Questa è una cosa molto positiva, con i tempi che corrono, c'è la gente. Scusate la voce, è l'aria condizionata, sono un pochino afona. Prima di cantare, che adesso ci canti qualcosa, ti leggo una frase che ha scritto il tuo amico Mauro. Dice: se vuoi ballare e cantare, Barbara Fotti devi ascoltare. Yeppa. Come dentro un sogno, la sua musica si illumina nel mondo. Mauro, sei grande, sei mitico, ti ringrazio. E comunque adesso la facciamo ascoltare al mondo la tua musica, perché ci ascoltiamo qualcosa dal vivo e ti ascoltiamo anche in streaming, quindi in tutto il mondo ti sta ascoltando chi si è sintonizzato in questo momento. Cosa ci fai ascoltare? Beh, io direi di incominciare da È come allora, che è il brano più vecchio che ho scritto, diciamo, che fa parte dell'album del 2004, e direi che partire con questo, con un nuovo arrangiamento. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rivivere un sogno davvero. Bisogno di te, di un semplice gesto e trovare un pretesto per noi. Rincorrere un bacio che non mi hai più dato, perché dal nostro passato hai già cancellato l'impronta di me. Quell'amore in bocca che al cuore tocca da un po', distacco forzato che non ho accettato tra noi. Mi basta un tuo sguardo e rivivo i momenti che sai. Non smetterei mai di amarti così, così come sei. Dimmi che ancora è come allora, dimmi che ami solo me, alle radici in una fortezza, questo legame che non si spezza, fermi il respiro, fai il gioco duro, ma so che ami solo me, dimmi che ancora è come allora, tu dimmelo ancora. L'anello che è stato e che ha unito l'amore tra noi. si è sciolto ma è stato creato soltanto per noi. L'anello mancante ha infranto la nostra catena ed ora esco di scena, ma non lo vorrei. Dimmi che ancora è come allora, dimmi che ami solo me. Alle radici in una fortezza, questo legame che non si spezza. Fermi il respiro, fai gioco duro, ma so che ami solo me. Dimmi che ancora è come allora, tu dimmelo ancora. Pagine di un'avventura, forse di una vita intera. Tutto si è dissolto in fumo nella scia del tuo profumo. Dimmi che ancora è come allora, dimmi che ami solo me. Alle radici in una fortezza, questo legame che non si spezza. Fermi il respiro, fai gioco duro, ma so che ami solo me. Dimmi che ancora è come allora, dimmi che ami solo me. Alle radici in una fortezza, questo legame che non si spezza. Dimmi che ancora è come allora, tu dimmelo ancora. Benissimo, mi pare hai superato ampiamente la prova. C'è poco da fare. Si è sciolta. Si è sciolta, sicuramente. Devo dire anche una cosa, che Agostino qui non ha neanche il reverbero. Lo so. Proprio piatti. Proprio così. Ma è bello. Siamo in flat. Tieni presente, Barbara, che la tua canzone, qualsiasi canzone, nasce così. Sì, è vero, hai ragione. Quindi. Sì. Qualsiasi canzone siamo, nasce... siamo all'origine, siamo proprio puri. Siamo più. Questo è un brano del 2004, è certo. Uno dei primi brani che tu hai scritto. La versione che ne hai dato in questo momento è una versione molto latinoamericana, un'altra volta. Come mai sì. Questo? Non so se sia Alessandro che ha ecceduto verso ritmi latinoamericani, però... Alessandro va. Mi ha contagiata, questo sicuramente. Però l'hai virata sui ritmi ancora latinoamericano nel senso positivo, ma mica negativo. Perché ha questa carica, credo, questo andamento. Cioè, questo andamento, e anche lui ha seguito l'onda. Ha seguito l'onda. Credo, giusto Ale? Lui dice di sì perché non è microfonato. Ma alzare il microfono se non lo so, io, allora Ale, puoi dire anche tu qualcosa, voglio dire. Quindi. No, è stata positiva. Sì. Dai. Sì, l'Unplugged, cari ascoltori, l'Unplugged è una cosa diversa, una versione live qui dentro in acustico sicuramente non è semplice, non è facile, no. Perché l'acustico è difficile. È difficilissimo. È difficilissimo, vero? Però dà molte soddisfazioni, Barbara, dai. Sì, la resa credo sia completamente diversa, cioè rispetto ad una base, un accompagnamento già pre-registrato, comunque di sotto come base. Insomma, Ale ti ha ascoltato la Barbara, sì. Sì, ma senza problemi. E quindi, insomma... Questa è stata la svolta, dal 2004 è stato questo primo pezzo, e poi l'idea quindi di fare il disco è partito dal 2004, ovvero però dall'esclusiva, vi parlo dell'esclusiva. C'era anche prima qualcosa, sì, discograficamente. C'era, perché io ho anche altri brani, certo. Altri brani che ho scritto, ne avrò una ottantina, 90, cioè forse anche un centinaio. Ovviamente poi Hai scelto? Ho scelto gli ultimi che ho scritto... Perché, vabbè, a parte appunto, è come allora, che comunque ha già 8 anni, certo, siamo nel 2012, certo. E li ho messi insieme, ho fatto questo album di 14 brani, con due versioni minimal, anche in più, quindi sono 16 tracce, certo. E però appunto ho altri brani, quindi la cosa è nata, cioè ripeto, come questo progetto, ho detto parto e vado, perché se non parto, cioè se non continuo non... Ma che consiglio ti ha dato Stefano, oltre per l'arrangiamento, cosa ti ha dato, che input t'ha indirizzato per andare avanti? Ma diciamo avanti. Che lui è stato l'artefice, perché è stato lui che mi ha aiutato all'inizio, mi ha dato lezioni, perché io da lui sono andata a fare teoria di solfeggio. Quindi ha creato un mostro. Lui dice sempre: ho creato un mostro. Quindi, ma non di bravura, nel senso un mostro, perché alla fine, cioè, io sono, no, cioè, non sono giovanissimissimissimissima. Ho iniziato un po' in età. Questo è uno stimolo per altri cantanti come te che vogliono cominciare quello, tardi. Quello sicuramente, anche perché non è mai troppo tardi, non si finisce mai, cioè ognuno ha da dare tanto a qualsiasi età. Non c'entra, certo, poi ovviamente. Ma hai recuperato subito. Ho recuperato in breve tempo. Però bisogna continuare, bisogna crederci, andare avanti. È comunque la mia passione, quindi in ogni caso io la porterò fino a che. Certo, e poi tu hai detto una cosa giusta prima, mi sono subito buttata dopo poco tempo, mi sono subito buttata a suonare, a cantare, questo era importante, avevi tanta voglia, cioè voglia di fare subito. Sì, perché probabilmente avevo dentro questa cosa, non riuscivo a buttarla fuori perché probabilmente non c'era la maturità, cioè ancora acquisita, non certo. C'era la... C'erano le piccole basi, sì, che poi c'erano degli input, ma non c'erano, magari le situazioni. Poi alla fine si sono invece... create, sono fuoriuscite, si sono fatte vedere, io mi ascolto molto e sono partita. Sei partita, ho detto, senza vai. Sì, sì. Vai. Anche perché io mi lancio sempre nelle cose nuove, in queste cose io non. Quindi non hai. Non ho problemi, non hai problemi. No, qualsiasi non hai esperienza music, come dicevano i tolkienesi, non hai la paura della musica. No, la paura della musica non ce l'ho, anche perché io sono io. Ho da dire qualcosa, qualcuno magari a qualcuno piace, a qualcun altro no, non si può piacere a tutti. Chiaro. E ovviamente è un genere mio, ripeto, è la mia passione e quindi questa mi stimola molto, mi stimola. Adesso ti stimoliamo ancora un po' perché vogliamo sentire un'altra canzone dal vivo. Dobbiamo cantare un'altra canzone? Certo. Cosa ci... cosa cantiamo? Guarda, sì, dai, tutto quanto sbagliato, allora, che è sbagliato. La prima traccia del disco. È la prima traccia del disco. Impazzisco l'idea e non scivola via questa voglia di te con me, di noi, in attesa malinconia, tiepida nostalgia, sola sì ma che vuoi che sia, e per scaramanzia penso ad una bugia da raccontare a me. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore, per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato. Impazzisco all'idea che tu non sia con me. Questa notte da sola, un'altra e poi un'altra ancora, mi domando perché. Arginare non so il dolore però, basta un piccolo sforzo, cado e poi mi rialzo, ricomincio da me. Anche se forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore, per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore, per non soffrire. Sei tu mio grande amore, per sempre nel mio cuore, e senza far rumore, perdono il tuo rancore. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore, per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore, per non soffrire. Sei tu il mio grande amore, per sempre nel mio cuore. Forse tutto quanto ho sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. Forse tutto quanto ho sbagliato, tutto quanto ho sbagliato, tutto quanto sbagliato. Fino all'ultima goccia, sentite questo. Sì, sì, sì. Anche qua è stato totalmente cambiato l'arrangiamento. Hai proprio praticamente. Abbiamo stravolto. Stravolto tutto, perché questo pezzo, secondo me, io nella recensione che abbiamo scritto, l'inizio era un inizio molto swingato, molto, molto delicato, avvolgente. E poi parte roccheggiante. E poi roccheggiante. Sì. Qui hai fatto partire molto prima dell'inizio swingato. Non so, per merito di Alessandro, per merito tuo, avete probabilmente rivoluzionato al 100%. Non è successo niente. È tutto live, è tutto in diretta. È caduto qualcosa. Non diciamo cose. È caduto. Beh, ma è interessante, cioè, perché quando uno crea i pezzi live qua dentro in acustico, li cambia. Ma io non capisco perché è successo. Li cambia. E sarà l'improvvisazione, cioè non lo so. Sì, ma è bello, ma è positivo, Barbara, cosa dici? Sì, questo sicuramente è positivo. Vuol dire che esistono, cioè, voglio dire, esistono altre, delle altre versioni, si possono vuol dire esistono altre Barbare che riescono a farle, sì. Altri vestiti che tu, sì. che tu praticamente usi. Sì. In questo momento ne hai usato uno di nuovo. Sì, è uno nuovo, certo. E quindi è un qualcosa in più. Chiaro. È un valore aggiunto. Certo, sono d'accordo. Anche se è solo chitarra e voce pura, però dà una resa diversa al brano. Quindi lo si vive di più, probabilmente lo si sente di più, ecco, da questo punto di vista. E questo era appunto Tutto quanto sbagliato. Un brano appunto del 2008 e che apre il disco, che apre poi il disco, è la traccia proprio numero uno. Del CD. Sai che è strano trovare un CD di questi tempi che abbia 14 tracce, perché di solito quanti ne... Ma, 10, insomma, 11? Sì, al massimo 10. 14, quando... poi 2 e 2 minimal, quindi sì, totale 16. Sì, sì. Un lavoro. Sì, è un lavoro corposo, sostanzioso, corposo. Infatti mi ha portato via anche tanto tempo, perché appunto avendo altre cose da fare, un altro lavoro, ovviamente nei ritagli di tempo si va in studio, si andava in studio e quindi sì. Ma si metteva in tutto insieme. E negli ulteriori ritagli di tempo, cosa ascolti di musica tu? Negli ulteriori ritagli, ma io ho un po' di tutto, non ho un genere unico. Che ti piace? Ascolto molto, vabbè, americano, in straniero, inglese, cioè anche italiano, cioè a me piace molto anche Mina, anche se si è ritirata dalle scene, però comunque Mina, a mio avviso, è sempre Mina. Poi ascolto anche Irene Grandi, ascolto George, ascolto di tutto, ascolto Amy Winehouse, ascolto i Toto, cioè George Benson, sì, cioè vari artisti. Alexander O'Neill, ve lo ricordate? Vagamente, molto vagamente, ma è degli i anni Boys to Men, quelli sì. Gloria Gaynor, Tina Turner, quindi ho, diciamo, un po' di a me soul piace. Anche. Sì. Beh, i Boys to Men, sì, cioè... mi piace molto la musica americana, mi piace molto, ma anche Mariah Carey, molto brava. Ripeto, non ho uno stereotipo. Ascolto anche i Moda, ascolto, cioè, anche gli ultimi, voglio e dire. E se proprio dovessi andartene in un'isola, come diciamo sempre noi, e ti portassi 3 CD, cosa ti porteresti? 3 dischi, insomma. Il mio primo, il mio secondo. Beh, bella risposta a questa. No, se dovessi portare 3 CD. Ma guarda, che non potresti rinunciare, diciamo. Ma 3 CD, non titoli, 3 dischi, artisti? 3 momenti, 3 artisti, sì. Potrebbe essere anche. Guarda, Amy Winehouse. Uh-huh. Tutta la discografia, tutta, ne ha fatti pochissimi dischi, ne ha fatti solo 3. Michael Jackson. E sul terzo sono un po' indecisa. Michael Jackson, cosa? Una raccolta? Sì, una raccolta, anche perché vabbè, i più belli sono Thriller. Thriller è bellissimo. Cioè, per me, a mio avviso, è il più bel album al mondo, credo. Con quello che ha venduto, poi anche. Ecco, direi. E poi, non lo so, per terzo porterei Barbara Foti. Perché no? Perché no? L'esclusiva. Giusto? È giusto, giustissimo. È validissimo, perché no? Scusa. Vuol dire, tre cose diverse. Tre cose diverse, tre momenti diversi. quindi... Parlando sempre del disco, io sì, tornando al discorso del pezzo che abbiamo appena sentito, c'era questo andamento swing, perché secondo me ami particolarmente, non dico il jazz, però similari avvicinanze con il jazz, sì. Guarda, non te lo so dire, cioè, probabilmente sì, la mia voce che mi porta. Ti porta a queste frequentazioni. Sì, probabilmente sì, questa cosa mia, da parte di me. Eccolo. E magari viene fuori. Adesso lo balliamo. Stiamo ballando tutti qua, eh? C'è Maurizio che sta danzando sul tavolo. Sì. Sì. Alessandro fa andare il piedino. E via. E via. No, sì. Hai queste frequentazioni soprattutto. Sì, probabilmente ripeto, perché ho qualcosa di mio. Vocalmente allora esce questo tipo di armonia mia vocale, credo. Noi nelle recensioni abbiamo scritto With a little help from my friend, cioè sei stato un gruppo che ti ha dato una spinta, oltre all'arrangiatore, ti ha dato una spinta, un insieme di cose. Ecco. Una compagnia abbastanza ampia, siamo 25, 30, non so quanti siamo tantissimi, anzi vorrei salutarli tutti però non finisco più. E mi sostengono, quindi mi seguono quando vado alle serate, e quindi fanno il tipo per me, fanno la promozione loro al mio CD. Perché qui oramai è tutto un passaparola. Certo, cioè io vendo i CD come passaparola. Certo. Ho stampato io, ne ho fatte fare 500 copie. E ne hai già venduti 250, le cronache dicevano di più. Io mi sono fermato alle cronache della provincia di Varese. Sì, qualcosa di più, siamo sui 300. Bene. Però sempre col passaparola, perché con il resto è un... Dobbiamo ribadire, come giustamente diceva Agostino, tu ti sei autoprodotta tutto, perché tu hai detto una bella frase. Tutto. Perché se non mi autoproduco io, chi mi autoproduce? Non c'è nessun altro. Poi comunque Lisa Sakezin mi ha aiutato, certo. E quindi è un'amica. Erwin, anche lui che è qui presente, appunto, ripeto, in studio. Cioè, sono amici, quindi non hanno voluto una lira. Una lira, ovviamente Stefano Lucato mi è venuto incontro, certo, mi è venuto molto incontro, perché tutti sanno quanto quanto costano comunque le produzioni artistiche in studio, quindi lui mi è venuto molto incontro, è stato veramente bravo ed è un altro amico. E ripeto, poi comunque per il resto è tutto autoprodotto, quindi se io non avessi avuto un altro lavoro non avrei potuto fare questo. Sono fortunata ad avere amici come loro che mi aiutano, mi sostengono. Ma è una grande soddisfazione, Barbara, avere un disco pubblicato, un disco al di là di tutto. Sì, questa è una grande soddisfazione. È frutto del mio lavoro, dei miei sacrifici e di tutto quello che ho dato. Insomma. E non è un EP, è un disco proprio intero. È un disco intero, appunto, ripetiamo, 14 brani più due minimal, quindi sono 16 tracce. E insomma, quindi c'è del lavoro, c'è dell'impegno. Senti, già che ci siamo, Barbara, dove si può trovare, se qualcuno al di fuori della provincia di Varese, del tuo giro di passaparole, volesse acquistare il tuo disco? Ma il mio disco lo possono trovare su iTunes, perché è download, quindi si può scaricare, e poi a Varese lo vende la casa del disco, quindi la casa del disco di Varese, che... E se qualcuno ti contattasse, tu lo spedisci? Ma non è ancora successo però... Poi io ho un cattivo rapporto con le mail, quindi questa cosa forse ne sai qualcosa, io è un disastro, cioè col computer per me è un delirio, perché c'è un altro qui, c'è un altro, non qui. Facciamo i nomi, lo facciamo. No, ma più che altro io mi arrabbio, perché dico, ma porca miseria, ma era lì quell'icona era lì, adesso non c'è più. Poi adesso devo andare là, devo mandare via, allora poi tutto per telefono facciamo, infatti chiamo Erwin, dico: Erwin, senti, ma come si fa questa roba? E lui mi dice: ma no, devi andare, poi è olandese, quindi parla benissimo italiano, però ogni tanto c'è qualche parola in inglese, olandese, quindi diventa ancora più difficile. Però ripeto, io ho un rapporto così con il computer, con le mail, e quindi può darsi che magari qualcuno me lo abbia anche chiesto. E quindi diciamo se dovesse succedere, ben venga, voglio dire, spediamo in tutto il mondo, ecco. Non ci sono problemi. Vabbè, al limite ti possono contattare sul sito tuo, sì, è un sito ufficiale, digitate Barbara Foti, entrate in Google e lo trovate, quindi poi c'è comunque una mail. che spero di ricordarmela, barbara.foti@hotmail.it. Yeah, ce l'ho fatta, è giusta? È giusta, Erwin? Dimmi di sì, è giusta. È giusta. E poi c'hai anche la pagina Facebook. Poi c'è anche info comunque, barbarafoti.it. Quindi ancora più. Sì, ne ho due. Poi c'è la pagina Facebook e la pagina artista, sempre di Facebook. Quindi da qualche parte mi trovano un po' dappertutto, come prezzemo. Adesso ti trovano provando le nostre frequenze. Vuoi ascoltare qualcosa dal tuo disco? Sì. Sì. Così ti riposi. Così ci riposiamo, sì, un pochino tutti. Vabbè, sì, insomma, adesso poi ascolteremo, credo, magari la 2, che Se un gioco non vale, credo. Okay. È quella? Certo, è quella? Quella sì, quella, dai, quella. Ascoltiamoci quest'altra. Ballad. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, eccoci qua. Ti sei rilassata adesso, ti sei riposata. Sì. È la prima volta che vai in una emittente. No, non è l'acustico. La prima volta, però è parecchio. Allora, l'acustico è la primissima volta in vita mia. Uh-huh. E quindi, c'è già un commento per la tua primissima volta in acustico? C'è un SMS. Oh my god. Io te lo leggo. E dice: E dice Barbara, Sei molto meglio in acustico che nel CD. Gigi da Torino. Oh, bene, ti ringrazio Gigi. Ti sta, ecco, ascoltando. Vedi. Ciao Gigi, buon ascolto e buon proseguimento all'ascolto di Barbara Fotti e soprattutto di Blu Radio Veneto con Agostino Spolaori, in questo momento con Maurizio Calzavara. Stiamo cercando di scoprire un po' di più il mondo musicale di questa cantante varesina che ci è venuta a trovare, ci sta omaggiando della sua presenza con la sua musica in questo disco che si chiama L'Esclusiva, il suo disco, diciamo, tra virgolette, il primo corposo, diciamo, giusto? Esatto, sì, il primo corposo. C'è stato anche Mente e Liquirizia, però, che aveva un... Sì, però un mini album. Un mini album. Sì, sono sei brani, anche quello, è un po' più agitato quello, forse questo un po' meno. Un po' più roccheggiante, forse quello. Non aveva sì. il produttore, cioè non aveva l'arrangiatore, era tutta farina del tuo sacco al 100%. Sempre autoprodotto, anche quello, quindi lavoro anche qui lì di fatica. E distribuito da me anche qui, anche quello, sì, sempre always forever. È stato sempre così. Always forever. E quindi è l'opera, insomma, è la numero due, insomma, certo. La seconda, sono parlato singolo, poi con questo e quello è l'ultimo che è appunto. Citando il pezzo che abbiamo sentito sì. adesso, sì. Giustamente tu a microfono spento parlavi dell'onda, perché hai cavalcato l'onda, questo pezzo era molto godibile, e una voce senza problemi, una voce proprio naturale al 100%. Sì, anche questo è nato, ripeto, così, l'ho suonato così e l'abbiamo vestito in questo modo. In questa maniera, sì. Esattamente. A questa onda, questo up and down è molto orecchiabile, molto ascoltabile, credo, almeno a mio avviso. Ha una buona dinamica e ha un testo, se vogliamo, un po' sensuale. Sì, un po' sensuale. Un po' sensual, ecco. Che ondeggia, ecco. Che ondeggia, ecco, leggermente. Diciamo, dolcemente su di te. Insomma, un po' di cose. Poi cosa vuoi sapere, Mauro? No, voglio sapere. dimmi, cosa vuoi sapere? No, voglio sapere proprio l'idea di fare questo pezzo, musicalmente come è stato arrangiato, ho capito. Cioè, questo ritmo latino che si insinua sempre, ha un senso positivo, perché proprio fa parte del tuo modo di approcciare la musica musicalmente. Sì. Probabilmente sono, cioè, ho uno spirito sudamericano. È sudamericano, non lo so, sì. Io. Movimentato nel senso positivo, ti muovi. Mi devo essere reincarnata qui. Sì. Ho sbagliato. Cioè, hanno sbagliato. Potrebbe essere a 8000 km di distanza. In Sud America. Potrebbe essere un'idea per il prossimo disco, ma lo fai su queste basi. Sì, potrebbe essere, ma c'è già in mente. Sì. Ci sarebbe già in mente un'idea di fare appunto un discorso di proprio chitarra e voce, acustico. Ovviamente Erwin sono sei mesi che me lo dice, perché mi dice, vedi. Tu la tua voce rende bene con proprio easy, cioè pura chitarra e voce. Senza nessuna infrastruttura. E non è detto che, voglio dire, si possa fare. Intraprendere questa cosa, anche perché adesso con Alessandro lavorando. Ma questa è un'esclusiva, non lo sapevo. Vedi, è un'esclusiva nell'esclusiva. Quindi, cosa nasce ma, cosa? Da cosa può nascere. Insomma, ti sei fatta, come dire, ammaliare dal suono di Alessandro. Beh, io devo dire una cosa, che è veramente bravo. Cioè, ha un tocco, ha un touch... Non so nemmeno come poterlo definire. Contage. Sì, è contage, sì. È trasmette. Ok, basta così, caffè che avevo promesso. Te ne vuoi andare? No, il non caffè lasciarmi. Che avevo promesso li pago a posto. Ma te l'avevo detto io quando mi hai chiesto. È molto bravo. Bene, bene. Scusate la mia voce, ma purtroppo l'aria condizionata. Allora, mi permetti una domanda ad Alessandro. Sì. Allora, come dopo questi primi minuti insieme a Barbara, che impressione ti ha fatto, insomma? Ma molto bene. È prestissimo per dirlo, ovviamente. Insomma. No, in musica ci si capisce subito al volo. Dopo due secondi ci si è già capiti. Assolutamente. Io ho allungato un 100 Hz. Prima. Mi ha detto, di così. Sai che ti scopro con le mascelle rosse adesso, anche che prima non le avevi. Ma sai perché? Perché hai spento l'aria così. Si sta scattando. Si sta facendo schiattare. Te l'aveva detto Maurizio però prima. Dopo sì. sentirai che caldo che fa. Allora, adesso però ci fai scaldare con la tua musica. Sì. Dal vivo. Continuiamo? Sì, certo. Continuiamo con un altro brano scritto sempre nel 2009, se non sbaglio, come vorrei. Sì, correggimi Maurizio, sì, io ne ho scritte talmente tante che non mi ricordo neanche più. Non cioè, è, sì, un 2010 forse? 2010 forse, 2011. 2011, è a cavallo del 10-11, sì. Quindi abbastanza recente. Comunque abbastanza recente, è un 6/8, è una ballad, è un lento, si intitola Come vorrei. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Piango con me e mi ritrovo qui sola pensando a te, immaginandoti, cercando poi di non illudermi che tu ritornerai. Un giorno lo farai, come vorrei stringerti forte a me, baciarti ancora e poi fare l'amore noi. Dio, se vorrei tornare indietro, sai, ma ci si perde poi, è troppo tardi ormai per noi. E mi manchi, manchi, manchi da morire, lasciamelo dire, amo te. Stare più insieme a te. No, non vorrei che tutto finisse qui, al capolinea ormai, soli si scende, sai. No, che non vorrei che terminasse qui tra noi. Ti prego, perdonami se puoi. Tu fallo, perdonami per noi. E mi manchi, manchi, manchi da morire. Lasciamelo dire. Male, male, male da impazzire, ora non stare più insieme a te. Senza te è un dolore che non si placherà, mi consumerà, non cancellerà la mia verità, non confonderà la mia anima. E questo grande amore che provo io per te. E mi manchi, manchi, manchi da morire, lasciamelo dire. Amo te, io ti penso sempre, sempre da morire. Io vorrei stare sempre con te. Anche qui fino all'ultimo pezzo molto difficile questo da cantare, Barbara. Sì, molto. Che Alessandro l'ha virato nel Tex-Mex alla fine, proprio volutamente. E tu l'hai, questo era un pezzo che ti sei fermata e hai ripreso, non era semplice come impostazione. No, era no. Piuttosto complesso. Sì. E sei stata brava a tenere il ritmo, a tenere il pezzo, perché era un pezzo difficile, nel senso, sei arrivato un po' alto, poi basta, cioè sei riuscito a tenere il pezzo, che non è semplice, secondo me. Ma la senti come sta sospirando? Lo so, però vuol dire che calor, che sudore. Era un pezzo complicato, sì, cioè, questo poco. Sì, però sì. L'hai cantato proprio entrando nella canzone. Nella canzone si è sentito, spero. Sì, c'hai sì, ancora sì, il fiatone, sì. c'è ancora il fiatone proprio, ancora la sentivi fiatone. Proprio questa canzone, sì, lo diranno poi gli ascoltatori. Sì, poi è una delle cose a cui ci tieni di più, forse. Ma è un brano molto profondo, certo. Sì, è una situazione che ho vissuto e quindi l'ho musicata, certo. Sì, e a mio avviso è una bellissima ballad, è un po' triste, un po' sì. Così, però insomma un po' malinconica, è un po' malinconica, questo mélange malinconico, però insomma è vera, è una cosa reale, è reale. Sì, è reale. Anche musicalmente, ripeto, io stasera, abbiamo sentito fino a qualche secondo fa, cari ascoltatori, voi non vedete cosa succede qua. Non succede niente. Però anche musicalmente era... Tu hai accelerato con la chitarra, hai fatto un secondo, una specie di rap, quasi di rap, 10 secondi di rap, e poi hai diminuito ma la velocità. Perché allora perché per qual motivo? C'era un motivo. Sì, perché questa canzone in realtà è nata molto più veloce prima. Mm. Cioè il ritornello era proprio sì, velocissima. Manchi. E poi invece il mio arrangiatore ha detto no, facciamola un po' più lenta. L'hai abbassata. E l'abbiamo rallentata. Però secondo me potrebbe venire bene anche più velocizzata. Più tosta. Sì. Ed è nata così, quindi siamo ritornati sempre all'origine e quindi in questo momento, probabilmente in quel momento l'ho sentita più... Veramente Liquirizia è un disco rock. Sì, è più rockeggiante. È appunto rockeggiante. Sì, è un po' più rockeggiante, sì, ha delle... Ecco, c'è su qualcosa. Sì, questa è l'immagine del cuore, che a mio avviso, ecco, questa andrebbe fatta lenta, secondo me. Sì, questa è ha un testo molto bello, cioè l'immagine del cuore è un testo molto bello. Se vuoi che ascoltiamo qualcosa dal disco vecchio... Come vuoi ma tu? Io non ho problemi. Dimmi tu una traccia. Sì, ma anche quello che volete. Cioè, anche Vada come vada è molto carina. Che è la numero uno. Sì. Eccola qua. Sì. Vedi che è rocchettara. Sì. Sì, è più pestone. Questo che la teniamo in sottofondo o la vuoi proprio fare ascoltare? No. Ci manca anche quello. A proposito di risate, Barbara, dimmi che ci hai fatto, cosa ci facevi con Enrico Berruschi? Niente, ci siamo trovate una sera a Milano. Ma è un concerto? E c'è stato, una serata in un locale, adesso non mi ricordo bene, eravamo in un, se non sbaglio, in un mega ristorante, c'era una serata e io suonavo ed è arrivato lui, ha fatto una cosa improvvisata, sì, quattro sketch e parecchio adesso che non lo vedo, comunque lo saluto, ciao Enrico. Ciao, se magari ci stai ascoltando. E Leano Morelli? Leano Morelli ho suonato con lui in Brera 3 o 4 volte. È un mito della musica anche italiana. Lui è tanto che non vedo, sì. Che insomma ce lo saluti. Sì, anche l'abbiamo lui. Avuto al telefono l'anno scorso. L'anno scorso, sì, abbiamo intervistato sì. Abbiamo fatto una piccola intervista. Dovrei chiamarlo, perché tanto anche lui che appunto non lo vedo, non lo sento. Se ha voglia di fare un salto a Padova ce lo fai sapere. Beh, si può anche magari sempre, voglio dire. Aggreghi. Voglio dire, Leano, se vuoi fare un salto a Padova ci siamo. Ho anche perso il fermacoda io. Ho perso il fermacoda, fa niente. Qui è l'agitation. Sì, infatti, della diretta. Per dire. È l'agitation. Della serie non stai mai fermo. Della serie no. Allora, Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, con Barbara Foti, accompagnata alla chitarra da Alessandro Modenese. Stiamo ascoltando, scoprendo insomma la sua musica, questo disco, come dicevo prima, che si intitola L'Esclusiva. Vi ricordo il nostro numero telefonico con il studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms il 346 2320 033. Le frequenze che state ascoltando sono 88700 e 94600 MHz. Poi siamo anche in streaming ovviamente dal sito della radio, cioè www.bluradiovento.it. Abbiamo ancora circa 20 minuti abbondanti, quindi abbiamo ancora qualcosina da far ascoltare, sempre con lei, sempre con la voce. Adesso cosa ci proponi? Proseguiamo con Up and Down. Ma ti sei ripresa? Vuoi chiacchierare un altro pochino? No, vabbè, continuiamo. Ago, così. Va bene, sì, va bene, dai, senza problemi. Cosa ci fai ascoltare? Allora, Up and Down, la canzone, la versione inglese, in inglese. Anche questa è scritta in inglese. Perfetto. fall in love, find a way to take your heart and steal your soul. So follow dreams and let love flow. Involve your senses and everything else. Suddenly and tenderly, my heart beat out. Love so sweet. If it's love, I'd lose control. I wonder why so many times you're up and down, all around in my head I find you. And I go crazy, I go crazy. Promise me you wait for me, give me a possibility. I go crazy, I go crazy. Come to me and hold my hands. Now we are much more than friends. Second chance, please not the end. I still love you, don't be so cruel. I'd like to spend my time with you. Believe me, guy, I'm not confused. I'm not surprised. You're on my mind. It's paradise. Then start to smile. You're up and down, all around. In my head I find you. I go crazy, I go crazy. Promise me you wait for me. Give me a possibility. I go crazy, I go crazy. You're up and down, all around. In my head I find you. I go crazy. I go crazy, I go crazy. A gentle beat on my heart, beautiful joy on my mind. A little piece of my soul is yours. And I want sure I mean love, love, love. You're up and down, all around. In my head I find you. I go crazy, I go crazy. Promise me you wait for me. Give me a possibility. I go crazy, I go crazy. You're up and down, all around. In my head I find you. I go crazy, I go crazy. Promise me you wait for me. Give me a possibility. I go crazy, I go crazy. You're up and down. Che grinta, eh? Che grinta. Vedi, anche questa è stata, non dico snaturata, è stata rimodernata, no, riarrangiata, rifatta. È importante perché una cosa importante, la chiave di volta di questo pezzo era il ritornello. È sì. un andamento circolare, quel ritornello che ritorna immediatamente, sì. continuamente, sì. perché tormentone. Deve entrare in testa. Sì. Perché deve entrare in testa, assolutamente. È un tormentone. È un tormentone, sì. è un tormentone. È molto bello l'arrangiamento perché è orchestrale, quindi ha degli delle contaminazioni gessate, esatto, gessate. Sì, quindi ha questa orchestra sotto, è molto, molto caliente, ovviamente con la base tutto, però rende anche molto bene sì, questa versione. L'ha fatta un po' fatta alla George Benson in alcuni alla momenti. George Benson, esattamente, si è un po' buttato, si è un po' buttato. A me ricordava Burt Bacharach. Vabbè, anche Burt Bacharach, fa, sì. fa tutta parte. A me ricorda cose. Anche Alessandro Modenese. quindi insomma diamo a Cesare quello che è di Cesare. No, anche se è un modo di dire, però era interessante. Aveva questo andamento circolare, sì. questo tormentone, questo ritornello che deve entrare dentro e che continuamente sì, che riprende in continuazione e riporta, e poi alla fine hai fatto una specie di sospiro, nel senso non perché eri stanca, di sospiro perché è terminato il pezzo, sì. C'è una supplica qui, eh. Cosa vuol dire? Dicono la 14 Iepa. La 14 Iepa. Non avevo capito. La vogliamo live. La facciamo, la cantiamo. Scusa, stavo bevendo un po' di Nestea. Che è lemon tree qua, lemon tè. Sì, chi è che chiede? Non ti preoccupare. È la 14, ma poi adesso dobbiamo farlo? Come vuoi tu? Non lo so, stravoci, va bene, dai. La 14. Bisogna cambiare la scaletta, si fa dal vivo. Vabbè, ti dico quello che ci fanno venire i tuoi fans. Sì, va bene, allora, ma chi è questo? No, fan. È un maschietto. È un maschietto. Sarà mica Luca? No. Chi è? Canta. Devo cantare. Devo cantare. Vabbè. Ok, allora cosa ci regali adesso? Allora, qua bisogna schitarrare. Sì, esatto. Bisogna schitarrare. Va bene. Non avevo capito, okay. Dimmi tu quando posso. Vai. Ma in che senso? Non avevo capito, è bastato un invito, un messaggio sbagliato, ora è tutto sfumato. Forse avevi ragione tu, che strana combinazione in più, un'improvvisa stoccata, il sentimento e ragione. Una domanda azzardata mi porta alla conclusione che forse avevi ragione tu, ma quale combinazione in più che ha avuto, avuto e ha dato e dai scordiamoci il passato e quel che è stato e stato e lo sarà. Ma che peccato, ora è passato, dai ridiamoci se è andato e quel che è stato e stato e lo sarà. Non avevo capito la domanda da Chito, è un pensiero sbagliato, dal subconscio mi è nato, forse avevi ragione tu, che strana combinazione in più, un'errata intuizione, tra sesso, amore e passione. Un altro amaro boccone e arrivo alla conclusione che forse avevi ragione tu, ma quale combinazione in più che ha avuto, avuto e ha dato e dai scordiamoci il passato e quel che è stato e stato e lo sarà. Ma che peccato, ora è passato, dai ridiamoci su andate e quel che è stato e lo sarà. Su dai, so fermati a pensare, vorrei una chance per dimostrare a te che ci si può anche sbagliare, anche alle volte innamorare, sì, innamorare. Che ha avuto, avuto e ha dato e dai scordiamoci il passato e quel che è stato e stato e lo sarà. Ma che peccato, ora è passato, dai ridiamoci se è andato e quel che è stato e stato e lo sarà. Non avevo capito. Barbara, grande artista, ascolto la tua voce che rapisce i sensi della gente come brezza sensuale. Cara amica, non fingi di essere qualcuno d'altra. Cara amica, sei unica e speciale. Tu sei piena di vitalità, vuoi sempre novità musicali per come riesci a darti. Se non esistessi, dovresti inventarti. Ma che belle parole. Ma chi è un maniaco? Poi te... non è un maniaco. Chi è? Poi te le vai a leggere tranquillamente. Me le vado a leggere? Su Facebook. Bellissime, sì, sì, sì. Comunque. Sì, grazie. Chiunque tu sia. Sì. La conosci bene comunque. Lo conosco? Sì, sì. Va bene, lo Ti conosco. Fanno i complimenti anche perché la Erika dice che questa canzone è anche la sua preferita. Ah, ecco, bene. Ciao Erika! Che caldo! Beh, questo era un pezzo che faceva caldo. Era movimentato, queste belle schitarrone battistiane all'inizio. Poi via, via. Anche Rino Gaetano. Anche Rino Gaetano, sì, esattamente. Il mondo anche di Adriano Celentano. È un po' di tutto. Sì, tu, Stand By Me, una roba. Beh, questa da Dio sicuramente creerà molto, molto, molto entusiasmo. Cioè, sì, piace molto. Piace molto perché ha un ritornello molto accattivante. Anche un ritmo che fa muovere. Sì, questa poi è unplugged, quindi è così com'è, nel senso che non ha ancora un vestito. Esattamente. E l'abbiamo, cioè, l'ho proprio voluto io, volutamente, metterla su così, anche perché poi vabbè, un domani si può pensare, oppure tenerla sempre anche comunque perché così, perché va benissimo così. Al suo fascino. Io direi, se tu sei d'accordo, sì, Barbara, dimmi. E siccome sono le 22:16, abbiamo ancora 10 minuti circa, io direi di fare ascoltare la canzone dal disco. Torniamo in studio, ci salutiamo e ci salutiamo con un'ultima canzone. Sì. Sei d'accordo? Sì, va bene. Oppure vuoi fare due canzoni dal vivo? No, fai una canzone, tu metti su una canzone tu, cosa metti? Quella che vuoi tu. Metto più semplicemente Favola. Sì, è una ballad bellissima con accordi gizzati. Bene. Gezzati? Fusion, no, più Fusion. Un po' Fusion, leggermente Fusion. Come me, Fusion, come me. Sei fusa proprio. No, no, più semplicemente favola, Barbara Foti, l'esclusiva. Stiamo vivendo un momento molto allegro qui in studio, dovreste vederci veramente con le telecamere. L'ascoltiamo. Soffice nuvola rosa, il mio pensiero dolcemente si posa, tenta uno slancio con il senno di poi, libero arbitrio al sentimento che va, e prende largo verso mete lontane, lo specchio, specchio, specchio delle mie brame. Radio Sera. Vediamo adesso poi. Vediamo adesso poi. Cosa vediamo adesso poi? Adesso no, poi. C'era una idea. Lei aveva una piccola idea, Agostino. Cioè? Di no, fare, io non ho nessuna idea. Di fare un ritornello, qualche secondo ritornello di Maybe, che ci tiene molto. E poi, lo fa. E lo fa e poi finisce come... Adesso facciamo Sì, facciamo subito, dai, facciamo subito. E lo quindi... so che ti metto in difficoltà, ma è fatta apposta. La radio poi mette in difficoltà. Vai tu, vado io, facciamo... Why, why, why, why, why. Never be the same. Ma facciamo il ritornello però? Solo il ritornello? Facciamo solo proprio il ritornello? Dai, allora. Why, why, why, why, why. Never be the same. Why, why, why, why, why. Maybe how I blame. Why, why, why, why, why. Never be the same. Why, why, why, why, why. Maybe. Eccola qua. Maybe. Ora che il silenzio intorno a me. Va bene così. Eccola qua. Te l'abbiamo fatto ascoltare anche da studio, hai visto? Sì. E vabbè, siamo arrivati alla fine, senza voce totalmente. Sono abbastanza piegata. Ah, sì, abbastanza piegata. Proviamo a fare un accenno di chi era l'amor? Possiamo farlo ancora più, più un ghetto, dai, ce la fai fare. Un ghetto, dai, un proviamo. Ghetto, maestro, vada. Non pensarci così. Sarà più facile. Condizione per cui non posso scegliere. Potrei credere, sai, anche alle favole. Condizione per cui non posso scegliere. Se sapessi andar via sarebbe semplice. Dovrei difendere, sai, l'amore che ho per te. Che sensazioni mi dai di lucida follia. Sono emozioni che tu ora hai portato via. Così una parte di me è vulnerabile, ancora fragile, è comprensibile. No, no, no, no, no, no, no, quiero dinero, yo quiero el amor. Y a palpitar de mi corazón, el fuego encendido hace mucho calor. Como a palpitar de mi corazón. E si diffonde così tra l'abitudine e la mancanza di te, la mia inquietudine. Distrattamente tra noi, come da qui all'eternità. Una distanza così, chi la raggiungerà? Un labirinto tra noi. Non chiedo al mondo, sai, provo a riprenderti, posso sorprenderti. No, no, no, no, no, no, no, quiero dinero, yo quiero el amor. Que a palpitar de mi corazón, el fuego encendido hace mucho calor. Como a palpitar de mi corazón, yo no puedo privarme, yo quiero el amor. Y al palpitar de mi corazón, el fuego encendido hace mucho calor, como en mi corazón. Non ti sei risparmiata nulla stasera, inglese, italiano, spagnolo, di tutto. No, manca l'olandese, se ti canta qualcosa. Manca l'olandese. Bene. Manca l'olandese. Barbara, siamo arrivati alla fine. Sì. Quindi hai visto un'ora e mezza passata velocemente? Sì. Tu avevi paura chissà che invece... Ho detto, sai, con la voce in questo modo è interminabile, sembra interminabile, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Dai, ce l'abbiamo. 30 secondi per dirci i tuoi dati. I miei dati in che senso? Sito ufficiale, se vuoi quant'altro. Metterci anche il numero di telefono, secondo sì, me va bene. Il mio sito ufficiale, appunto, cercate in Google Barbara Foti, la mail barbara.foti@hotmail.it, e potete scaricare la mia musica su iTunes, perché è download da un mese e mezzo circa. Quindi questo è quanto. Il mio numero di telefono è 347 347 347. Qualche qualcuno se lo prende poi, va bene. Barbara, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a te Agostino, un grazie a Maurizio, grazie a te, grazie a Alessandro Modenese, e grazie a Blu Radio Veneto. Ciao Ale, grazie anche a te. Ciao a tutti. Io doppiamente ti dico grazie da parte mia, lo sai. Ti aspettiamo per il prossimo artista, che sarà penso in agosto, speriamo. E Barbara, con cosa ci salutiamo adesso? Con? Ma quello che vuoi. No, dimmi. Guarda, tu. Dimmi tu, se vuoi. Vuoi mettere su una canzone? Sì, certo. Ma io farei anche Perfect Stranger in the Night. Okay. Eh? Dal vivo? No, dal vivo. Sì, dal vivo. No, dal vivo no. No, dal vivo no. Dal vivo, no. No, perché? Vuoi farla proprio dal vivo? Sì. Sono già le tre. Aspetta, no, che salutiamo. Fai, fai un pochino. No, falla, no, la mettiamo su. Non c'è una canzone da salutarci dal vivo? Cosa potrei cantare? Quello che vuoi, quello che vuoi. Una cover. Vuoi? No, una cover. Allora piuttosto. Chissà dov'è, dov'è, dov'è. Questa qua. Bene, ti aspettiamo. No. Ma in che senso? La devo suonare? Certo. Tutta. No, no, devo suonarla tutta. Metti su qualcosa. Dai, va bene, quello che metto, vuoi. Ti metto la traccia numero 10. Vai, andiamo contro la tradizione. Però. Andiamo contro la tradizione? Esattamente. Porca miseria, allora dobbiamo suonare. Allora fai, sì. Fai un refrain, dai. Dai, fai qualcosa. Vinto. E cosa vuoi che ti faccio? Di nuovo l'esclusiva, che ne so. Facciamo voi. Tutto quanto sbagliato. Tutto quanto. Ok, ok, ok. Dai, facciamo allora, tutto quanto sbagliato. Ti aspettiamo per il prossimo disco? Sì, va io bene. Verrò volentieri. E un grazie di cuore ancora a tutti voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, prego, ciao, prego. Ciao, ciao. Vai tu? Pronto, Ale. Impazzisco all'idea e non scivola via questa voglia di te con me, di noi, in attesa malinconia. Tiepida nostalgia, sola sì, ma che vuoi che sia, è pescara manzia, penso ad una bugia da raccontare a me. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato. Impazzisco all'idea che tu non sia con me. Questa notte da sola, l'altra poi l'altra ancora, mi domando perché. Arginare non so il dolore, però basta un piccolo sforzo, cado e poi mi rialzo, ricomincio da me. Anche se forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore per non soffrire. Sei tu il mio grande amore, per sempre nel mio cuore, e senza far rumore perdono il tuo rancore. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore per non soffrire. Forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. L'anima si scosta dal cuore, viaggia persa d'amore per non soffrire. Sei tu il mio grande amore, per sempre nel mio cuore. Thank you. forse tutto quanto sbagliato, ma qualcosa è cambiato, tenero amore. Forse tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato, tutto quanto sbagliato. Grazie, ciao! Blue.